Ma lo vedete? Lo sentite che può diventare anche terrore codesto sgomento, come per qualche cosa che vi faccia mancare il terreno sotto i piedi e vi tolga l'aria da respirare. Per forza, signori miei. Perché trovarsi davanti a un pazzo, sapete che significa? Trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto avete costruito in voi, attorno a voi, la logica di tutte le vostre costruzioni. Eh? Che volete? Costruiscono senza logica, beati loro, i pazzi.